avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Questa mattina ho deciso di risolvere uno dei problemi più tragici di questi giorni. Cosa regalare a Natale? Sì, perché tutti sappiamo che qualunque sia stata la nostra presa di posizione, la nostra fortezza ideologica inespugnabile, qualcosa dovremmo pure fare a qualcuno. È una cosa tristissima, bisogna andare in giro per negozi, fare delle file inaudite, poi nemmeno te lo impacchettano più un regalo, non c'è tempo, non ci sono soldi, non c'è personale. Quindi poi bisogna fare una seconda fila a un bacchetto di ragazzi impegnati in lodevoli benefiche iniziative che ti fanno il pacchetto, però nel frattempo ti raccontano anche come la loro iniziativa, il loro progetto ammirevole sia degno della tua attenzione. Quindi mentre ti fanno il pacchetto ti riempiono dei plian e ti fanno vedere altre pubblicazioni, insomma impegnano il tuo tempo. In quel momento probabilmente non sei nell'animo migliore nemmeno per occuparti della fame in quel particolare paese e dell'emarginazione in quell'altro particolare quartiere. Questo non lo dico per spietatezza, ma lo dico perché nel quacervo, nell'insieme di impegni, doveri, di obblighi di questi giorni c'è anche quello di dover dare una piccolissima parte della propria attenzione a chi ti fa il pacchetto, perché se non ti fanno il pacchetto loro, chi te lo fa il pacchetto? Trovatevi voi alla vigilia a dover consegnare un regalo, a dover fare un pacchetto. Sì, la carta ve l'hanno data, il nastrino ve l'hanno dato, l'adesivo ve l'hanno dato, fatelo da voi un pacchetto se non l'avete mai fatto. Provate a tagliare la carta col coltello, a chiuderlo, viene uno schifo, è impossibile. E la carta, la confezione, il fiocco è la parte essenziale di un regalo. Il regalo, una volta scartato, per quel nanosecondo in cui si scarta vale la pena e l'emozione, una volta scartato viene messo da parte. Il sorriso di circostanza, che bello, proprio quello che mi mancava, hai realizzato il mio sogno più profondo e più inesprimibile. Poi il regalo va messo lì. Molto probabilmente quel regalo verrà riciclato, verrà frantumato per non dover dire che non è stato esposto quel meraviglioso portacenere in cristallo nel salotto buono, e cioè si è rotto, sai, la donna ha fatto un casino, i bambini e via dicendo. Beh, di fronte a tutti questi problemi io posso darvi un modestissimo aiuto. Io questa mattina vi regalerò dei regali. Cosa vi posso regalare? Vi posso regalare un libro infame da me dedicato. Questa volta però la dedica la farò non all'ascoltatore chiamerà all'800240024, ma alla persona che voi vorrete omaggiare di un vostro regalo. Guardate, ho appena fatto una foto, adesso la pubblicherò sul profilo Facebook, la farò a tempo reale mentre vanno le clip. Sono veramente circondato col fior fiore, quanto c'è di meglio della saggistica, della letteratura, della narrativa di questi ultimi mesi. Ho fatto un profondo e radicale sacrificio, mi sono privato dei libri più importanti della nostra bibliotechina personale di Radio 24, cioè quelli che mi mandano, quelli che vi recensiamo, quelli che rappresentano il sogno segreto di Fabrizio Intonti, del professor Chiappini, del dottor Rocchetti, che li vorrebbero anche loro per i loro figli, per i loro genitori, per i loro amici. Vi ho detto no. Oggi li regaliamo agli ascoltatori. Quindi chi di voi chiamerà all'800240024? Ma no, qui davanti a me una cinquantina, ma ce n'ho un armadio pieno di là. Non c'è mai stata una narrativa, una pubblicistica così feconda come in questi ultimi mesi di crisi. Quindi posso regalarvi di tutto, da L'Islam spiegato ai leghisti di Khaled Fouad Dahlam, al favoloso Godete di Alessandra Di Pietro, a Il pinguino, rituali amorosi in produttività contemporanea, al favoloso rapporto Censis, al librone in cui farete una bellissima figura, l'ultimo rapporto Censis, ve lo regalo, Stefano Zurlo, Prepotenti e Impuniti, insomma, biografia di Pertini, o quanto c'è di meglio e di desiderabile. Come fare a guadagnarsi il privilegio di avere un regalo da regalare ai vostri amici? Beh, questa mattina l'argomento del giorno sono i regali infami. Chi di voi mi racconterà e descriverà il più infame dei regali che ha fatto, che è pronto a fare o che è disposto a fare, avrà in regalo un libro infame. Due al prezzo di uno. Avrete il vostro regalo infame e favoloso, quindi che ne so, una caccola incartata, un coccio di bottiglia impacchettato, la cosa più orrenda, schifosa che vi preparate a regalare, a riciclare o che avrete intenzione di regalare, potrà essere associata a un libro infame con dedica autografa personale, per quello che può valere. Potete dire, sai, c'è la dedica di uno che fa la radio, e dite un po' questo, fate un po', vendetelo e scriverò ciò che volete, voi mi farete una descrizione del personaggio, io a tempo reale vi scriverò la dedica. Poi probabilmente la fotografo la metto anche su Facebook, così vedrete, avrete anche la prova e la diffusione anticipata alla vostra dedica. Insomma, più di così non saprei cosa darvi. Ho ben poco, non ho nulla da regalare, ma i miei libri infami e la mia dedica. Ciao a tutti! Periodo di Natale, periodo di regali, ma anche periodo di crisi. E allora, in che modo non fare brutte figure con i regali senza mettere le mani al portafoglio? Per fortuna esistono i regali riciclati. Ecco, io per esempio avevo un vicino di casa quando ero piccolino che ogni 2 anni mi regalava un elicotterino di plastica. Era orribile, a me faceva cagare. E quindi glielo davo ai miei genitori che lo conservavano. Poi però si scordavano chi me lo avesse regalato e quindi arrivava Natale e dicevano che cosa regaliamo al figlio del vicino e gli riproponevano questo elicotterino di plastica. Poi il Natale seguente lui me lo ridava e mi diceva guarda che t'ha portato Babbo Natale. E quindi io ad un certo punto sono arrivato anche a scrivere una letterina a Babbo Natale, anche abbastanza arrabbiata. Caro Babbo Natale, se per 5 anni ti ho chiesto il Power Ranger rosso e tu per 3 anni mi hai portato l'elicotterino, c'è qualcosa che non va. Non so se sia il tuo udito per 800240024. Avete tragiche storie di regali dal continuo ritorno, come quella dell'ascoltatore che abbiamo appena fatto in questo momento sentire. L'elicotterino di plastica, l'odiato elicotterino che rimbalzava tra lui e l'alberello del suo piccolo vicino. Ognuno lo riappiccicava, lo regalava, lo riappioppava l'altro e con un'impunità e con una spudoratezza degna di miglior casa ogni anno lo ritrovavano sotto l'albero. Vi è mai capitato di ricevere un regalo che avete già regalato? Avete anche voi la stanzetta del riciclo dei regali, come molte volte ho visto? Beh, probabilmente chi sarà più fantasticamente fantasmagorico nel raccontarmi queste storie avrà un ambitissimo libro infame. Mario, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Vediamo se si merita un libro infame. Vediamo. Io mi trovavo con mia moglie in uno di quei luoghi, immagino a cui lei si riferisse prima, ero in un outlet, quello vicino a Roma. Sì, bellissimo. Ero lì in un bar. Guarda, io sogno soltanto di poterci andare da solo, dovrò fare delle operazioni di sfamiglio perché nessuno mi seguirà, vorrei passare mezza giornata in quell'angolo meraviglioso in cui si vende di tutto. A me piace la contaminazione con la merce infame, prego. Ma io ci vado per lavoro spesso, tutti i giorni in pratica. Beato lei. Sono infastidito da questo consumismo che ormai ha permeato tutte le nostre azioni, condivido quello che diceva sui regali di Natale. Che stupenda droga lasciarsi immergere nel consumismo. Lasciarsi contaminare dalla merce. Comunque andiamo avanti. Allora, ero seduto in un bar e mia moglie ha notato una bustina tutta carina, una shopper di una marca molto importante, e io in maniera molto infame ho aspettato un po', il bar era molto frequentato ovviamente, ho visto che nessuno la raccoglieva, l'ho presa, ho guardato dentro cosa ci fosse, 2 bellissimi regali di marca, non è che sono andato lì a riconsegnarlo al front office oppure darlo al bar. Ho visto cosa c'era e poi ho riciclato i 2 regali, farò sicuramente felici le mie 2 sorelle. E cosa c'era? Cosa c'era dentro? Beh, descrivo marca e oggetto? No, più o meno, ma sa che ci importa. Una cintura bellissima di firmata. Una marca rinomata e l'altra. Oddio, è caduto. Recuperatelo perché devo dire che meritava, questo signore meritava. Appena lo recuperate vedremo se assegnare a noi, o lui o no, il regalo infame. Diciamo che è doppiamente meritevole. Fa un'infamata perché se lo frega il regalo di un altro, magari lì era una povera disoccupata che aveva messo da parte soldino dopo soldino in un anno di stenti e aveva comprato quelle 2 cinture meravigliosamente firmate per il suo fidanzato, l'una per mettersela ai pantaloni e l'altra per essere piacevolmente cinghiata probabilmente nei giorni di festa, e adesso rimarrà asciutta, non avrà il piacere e non avrà la gratificazione del regalo. L'abbiamo recuperato, Mario. Sì, eccomi qua. Mario, la sua cattiveria, la sua perfidia, la sua infamia è talmente profonda, sublime e meravigliosa per questo Natale che abbiamo deciso di premiarla. Complimenti, hai vinto un libro infame. Allora, all'ascoltatore Mario, che con un disprezzo così profondamente radicato, viscerale e genetico per la bontà, ha fregato le due cinture della povera disoccupata che sognava di essere cinghiata a vederne cinto il suo fidanzato, e la regalerà probabilmente a qualche nonna, suocera, perché abbia la speranza che ci si possa impiccare, regaliamo il libro infame "A 9 anni portavo i collant". Senta, a chi vuole che lo regalo questo libro? A chi devo dedicarlo? Ma io la farei ancora più infame la cosa, lo manderei proprio a mia sorella, che è una delle destinatarie del regalo. Beh, guardi, lei non si immagina l'infamità di quello che sto per fare. Questo libro, "A 9 anni portavi collant", di Federico Fioroni, c'è una dedica a Gianluca Nicoletti, un piccolo romanzo per una mente ammirevole. Quindi io dovrò cancellare questa dedica e scriverci sopra l'altra dedica. Bene. Perfetto, bene. Allora la cancello con un tratto di penna. E a chi vuole che lo dedica? La sorella? Sì. Come si chiama? Come si chiama? Chiara. Alla cara sorella Chiara, perché con queste due cinture, con una ci si impicchi lei, l'altro chi le sta più sulle scatole della sua famiglia, di sua sorella? Il marito? Ma no, di mia sorella nessuno, io nessuno. L'amo. Sorella. Allora, con queste due cinture, siccome l'amo, mi ci prenda cinghiate quotidianamente, va bene? Che poi è anche abbastanza sadomaso come cintura, quindi... Perfetto, così coronerà il suo sogno di Natale. Benissimo. A Chiara, lei avrà questo libro, glielo manderemo subito, terremo il suo telefono. Chiara, mi segno io la dedica a Chiara, cinghiate, perfetto. Ce l'ha, lei consideri che può dare un buono omaggio di Natale a sua sorella, il libro è per lei. A 9 anni portavi il collant, c'è già una dedica dell'autore, quindi vale ancora di più, sovrascritta con una mia dedica. 80024. Sì, a proposito del Natale, volevo dire che io sono diventata una professionista nel riciclaggio dei regali, in quanto detesto andare per negozi, e l'unica cosa è che l'anno scorso mi è ritornato indietro un regalo che avevo riciclato, però non mi sono fermata di fronte a questo imprevisto e ho continuato a riciclarlo. Il vero problema è costituito dai paparacchi, ossia quei regali talmente orrendi, talmente brutti, che non sai veramente sia dove collocarli, che cosa vogliono dire. L'unica cosa è avere molta pazienza e aspettare di mollarli a qualcuno che detesti, quindi invece di dargli uno sgrassone gli ammolli un paparacchio. Sono stato autosegato dalla clip, dal professor Chiappini, 80024 0024. Stavo scrivendo la dedica per il libro della sorella Chiara, di suo fratello Mario, delle cinture fregate. Sentiamo Cristina. Cristina, buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo da Firenze. E niente, io ogni anno per Natale soffro, perché secondo me ormai ci sentiamo tutti obbligati a fare regali e pochissimi nascono dal cuore, e quindi provo questo disagio ogni anno, anche perché poi per me il Natale dovrebbe essere tutti i giorni e non un giorno, insomma. Ecco, adesso che ha detto questa banalità, andiamo al punto. Quale regalo infame ha fatto? Non è una banalità, perché noi pensiamo ad un giorno, è Natale, tutti gentili, tutti carini, poi ci scanniamo tutti gli altri giorni. Eh beh, quello è il bello del Natale, che per un giorno siamo ipocriti, scusi, perché vuol toglierci questa gioia? No, l'ipocrisia, io detesto. È un bel regalo. Io la detesto. Ma lei vive molto, molto arrabbiata. Vuole no. provare a tentare di guadagnarsi un libro infame o no? No, diciamo sono idealista. Vabbè, sono idealista. Ma mi dica una schifezza che ha fatto nella vita. Una schifezza, un laccino per tenere un cellulare o un oggetto che non serve, perché uso, mi è stato regalato, sto cercando di vedere come riciclarlo. E lei non ha un cellulare? Sì, ma no, il laccino lo trovo banale, non serve il laccino, quindi dico che me ne faccio, vediamo a chi lo riciclo. Lei è molto triste però, signora, vorrei vedere di alzarle un attimo il livello di piacere. Io invece sono felice, sono consapevole però, e la differenza è questa. Molte persone vivono nella non consapevolezza. Vabbè, signora, questa è la differenza. Siccome bisogna applicare un criterio di giustizia, il suo totale essere controtendenza rispetto allo spirito dell'infamità del regalo mi fa sì che lei non avrà nessun regalo. Andiamo avanti con Stefano. Buongiorno Stefano, vediamo se riesce a migliorare la situazione. Io ho regalato a un amico che non fuma un narghilè, che insomma tutto sommato mi sembra abbastanza... Ma l'ho fatto apposta con intento malevolo? Eh, Beh, sì, certo, perché era una cosa di tutti inutile. È una cosa che aveva per casa e già qualcun altro aveva regalato? No, no, no, la sono andato a cercare. L'ha comprato apposta? Apposta, sì, non ho preso molto. Cioè, voleva fare uno sfregio al suo amico? Beh, sì, è una cosa del tutto inutile, appunto. Gli piace fare un po' il dandy, un po', capito, queste cose un po'... E che ci fuma? Le fettine di mela come quelli che vanno... No, nei localini facendo finta di fare gli sballati e fumano sti narghilè con la mela dentro. No, anche insomma siamo un po' grandi nel senso. Ah sì, ci fuma la roba quella proibita. No, è anche difficile da rompere, tra l'altro, perché non è di cristallo, quindi anche se accidentalmente casca tutta più si ammacca, no? È difficile da eliminare. Va bene. Non l'ho più visto a casa sua. Non l'ha più visto, l'avrà regalato a qualcun altro e girerà questo narghilè. Va bene Stefano, buon Natale. Vanessa, buongiorno. Buongiorno. Andiamo avanti. Salve, io ho comprato a mia zia per regalo di Natale una merendina gigante, una Kinder Brioche finta gigante. Sua zia soffre di diabete, immagino. No, no, lei va matta per le Kinder Brioche, in particolare quelle al cappuccino. E allora io e mia cugina abbiamo trovato questa merendina gigantesca, finta, dentro fatta di spugna, ma fatta finta. Benissimo. Ma se sua zia se la mangia gli fai un blocco intestinale, deve stare attenta. Beh, sicuramente capirà che non è ben commestibile. Lei quindi ha fatto questo regalo a sua zia, giocando sul fatto che la signora probabilmente ha una certa età, gli ha regalato una merendina gigante fatta di gomma piuma e non sottovaluta al fatto che sua zia potrebbe addentarla in una sorta di foga senile, perché sai sono un po' golosi gli anziani, mangiarsela tutta e poi avere dei problemi inestinguibili. Questo merita un premio. Complimenti, hai vinto un libro infame. Alla deliziosa nipotina Vanessa, che con tanta sottile perfidia ha regalato un'arma di eliminazione orologeria a sua zia, regalo il libro infame Godete di Alessandra Di Pietro, che è un favoloso libro che è stato presentato pochi giorni fa proprio in questa trasmissione, dove spiega le più raffinate, sottili e lubriche maniere del godimento femminile. A chi lo vuole regalare, Vanessa? Ma a questo punto direi che lo regalo a mia zia. Sempre a sua zia, perfetto. Quindi avrà un ultimo spasmo di senile e orgasmatica gioia e poi morirà affogata alla merendina. Come si chiama la zietta? Serenella. Allora, alla zia Serenella da Vanessa, perché mangia e fotta, alla mia salute. Va bene così? Ok, grazie. Grazie, mille. Arrivederci. I bambini sono pochi rispetto al numero degli adulti, per cui ricevono tantissimi regali e loro stessi poi sono talmente piccoli che non si rendono neanche conto del valore del regalo. Quindi io dico sempre, finché sono così piccoli non vale neanche la pena di spendere poi così tanto per loro, perché tanto loro non lo capiscono, anche perché io poi ho notato che di fronte anche a un giocattolo molto bello, poi il bambino tende a giocare sempre con la stessa cosa. Mio figlio ha giocato per un anno intero con una scatola vuota, ci buttava dentro le matite e le tirava fuori, e aveva dei giocattoli molto belli, però il suo divertimento era riempire e svuotare una scatola di cartone comunissima, una scatola di scarpe tra le altre cose. Quanta gioiosa perfidia in questa madre, si scarica le responsabilità di non voler, dovere, avere la fatica di andarsi a scegliere adeguati giocattoli per suo figlio, a cui dà praticamente ciò che dovrebbe mettere nel cassetto della raccolta differenziata per carte e cartoncini, e il bambino con una scatola da scarpe, poverino, unico balocco della sua infame, infausta fanciullezza, gioca e rigioca sognando trenini, sognando costruzioni, sognando soldatini. Una meravigliosa storia di Natale. Laura, buongiorno. Salve Nicoletti, buongiorno, piacere parlare con lei. Senta, io se dovessi vincere questo interessante libro che lei mi vorrà dedicare, bisogna vedere se lo guadagna. Dedicare a mio figlio. Bisogna vedere se lo guadagna però il libro. Ve lo devo guadagnare, non so, vediamo. Lei dunque, deve dirvi un regalo infame che ha fatto, che ha subito o che vorrebbe fare. Ecco, ma allora, vada pesante. Ho la presunzione di non farne, però sicuramente è capitato. Tendenzialmente però mi è capitato di riceverli. Noi cosa facciamo quando riceviamo magari il classico regalo indesiderato? Partecipiamo a un'associazione sportiva dove a fine anno facciamo una festa appunto generale e quindi si portano regali ricevuti da riciclare. Qui riappioppate le schifezze in una festa. Assolutamente, anche perché ne abbiamo talmente tante di queste schifezze. Però vi descrivo una schifezza veramente schifosa. Ecco sì, c'è stata una volta che... sinceramente non abbiamo visto, perché prima non si impacchettavano, quindi li si vedeva questi regali. Nemmeno la fatica di impacchettarli. Sì, assolutamente, ma anche perché c'era sadismo, nel senso così lo vedevi quello che ti veniva più appioppato. Impacchettato col numero, è bello. Col numero. Scusi, impacchettato quindi, è meglio. Lei fa una bellissima carta con una schifezza dentro. Uno chissà cosa sogna mentre scarta, poi quando vede l'orrenda caccoliera... Abbiamo visto tutti i regali e c'era questo appendiabiti, classico da montagna, non so, da rifugio, con portabiti a piedino di zampa di cinghiale, cose di camoscio. Sì, però finti, avesse la dignità di appartenere a un cinghiale. No, erano veri, veri, assolutamente veri. E ovviamente facevamo insomma, il classico tocco scaramantico, tuo. Per la seconda casa al mare è perfetto l'appendiabiti con la zampa di cinghiale. Alla fine comunque purtroppo ce lo siamo tirato a furia di dire tuo l'abbiamo beccato noi. Senta, suo figlio quanti anni ha? Allora Manu ne ha 27, torna a casa oggi dopo un anno e mezzo che vive in Australia. Ah, benissimo signor, benissimo. E devo dire una dedica se lei riuscisse. Sì. Aspetta, lei ancora, ancora non sa se ha vinto o no, abbia un attimo di pazienza. Complimenti, hai vinto un libro infame. Allora, alla nostra ascoltatrice Laura, che ha un figlio che vive in Australia e torna finalmente in Italia dopo tanti anni, in vacanza, sì, non potrà fare a meno di leggersi il corposo volume di ben, adesso le dico quante pagine sono, 700 pagine, che è il rapporto sulla situazione sociale del paese 2010 del Censis. È fresco di stampa perché è stato presentato pochi giorni fa. Come si chiama il suo figliuolo, Laura? Manuel Guerrera. Perché ha dato questo nome orrendo? Guardi, qui pro quo, io lo volevo chiamare in un altro modo. Ma Manuele non era meglio? Manuel, che vuol dire Manuel? Perché Guerrera sta bene, sa, stile spagnolo. Vabbè, Guerrera, anche Gloria Guerrera. Nonni siciliani. Ah, Manuel quindi, Guerrera, così fa finta di essere un torero, in realtà. Ma lui non vorrebbe lui, perché in effetti secondo me gli sta un po' scomodo. Ma comunque, pensi in Australia quanto cambia, si chiama Manuel Guerrera o Manuele Proietti? No, io secondo me lo confondono molto con tutti gli stranieri, ecco. Vabbè, sarà per loro Italia e Spagna, purché se magna. Vabbè, grazie Laura, arrivederci, preparo la dedica, tra un istante avremo modo di assegnare altri favolosi libri infami. 800 24 0024. Melog 2.0. Io avevo promesso, credo un mesetto fa, che vi avrei fatto vedere le mie creazioni natalizie che poi avrei regalato alla gente a cui tengo, insomma. Ho voluto fare dei saponi e dei prodotti per il corpo fatti in casa da me. Come vi avevo detto, avevo comprato tutti gli ingredienti e ho creato appunto questi saponi. Questo è un sapone fatto a fiore, è molto bello secondo me. Questo è il sapone di meringa al limone, al sapore, al profumo di meringa al limone. Invece questo è un altro saponetto fatto a fiocco di neve gigante. Che tenerezza questa ragazza che costruisce i saponcini fatti da sé, pensate, con quanta cura, quanta solerzia, quanto amore e dedizione prepara questi orrendi saponcini che chiunque riceverà in regalo riciclerà immediatamente. Allora, prova che non sto scherzando, che realmente sto regalando fantastici e ripetibili libri infami con dediche personalizzate alle persone che più vorrete voi gratificare. Se andate nel profilo mio Facebook, già vedete le foto dei libri che ho appena dedicato al Manuel che viene dall'Australia che va al rapporto Censis, alla nipote, vorrei regalarla alla nonna perché schiatti e goda, e una serie di altri ascoltatori, e pronto a farne altrettanti nel tempo che ci separa dalla sigla di chiusura. 800 24 0024. Michele, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora, Io ho ricevuto, intanto faccio una piccola premessa, odio mettere dentro a casa degli oggetti che mi vengono regalati da altre persone, perché ritengo che casa mia l'arredo a gusto mio e come voglio io. Bravo. Quindi abbiamo sempre raccomandato ai fratelli di mia moglie, un fratello e una sorella, di non regalarci per favore cose per casa, perché saremmo costretti poi a buttarle via. Puntualmente 3 anni fa entrambi, tutti e due nello stesso Natale ci hanno regalato delle 2 cose per casa che facevano veramente schifo. Tipo, era le descriva. Allora, un portacandele, quei lumini, Nicoletti sa, di colore grigio con lumino piccolissimo all'interno, no? Di cera. Sono perfetti, sono perfetti. Allora, quando si giacerà sotto la nuda lapide, esatto, di una tomba, ma prima è un esatto, inutile spreco. Esatto. Allora, un portalumini da muro, quindi era un tubo arrotolato su se stesso con dei piccoli supporti con i lumini appoggiati sopra. Dovete trasformare la casa neanche in garage. Casa vostra in un colombaio da cimitero di campagna, non lo so. Esatto, una cosa indicibile. L'altra era una fontanella, quel cilindro da cui scaturisce fuori l'acqua in cima che fa girare quella pallina, no? Che continua a farla girare. Una cosa che non saprei, che devi pure accendere elettricamente, quindi ha una spina e non avrei saputo neanche dove mettere. Ma la può mettere sul bidet, è utilissima, le fa risparmiare tantissima fatica. È già dragante. Allora io, Nicoletti, memore di questo, ho preso i regali, li ho accuratamente riportati, scatole, li ho tenuti, li ho conservati, fino ai compleanni dei rispettivi cognati. Ho smontato il tubo e ho smontato la fontana e ho composto due oggetti, due soprammobili da mettere sopra qualche mobile, che devo dire non sono riusciti neanche male, però non era niente di particolare, perché capisce che li ho composti con le parti degli altri due e li ho regalati rispettivamente ai due miei cognati per il compleanno, i quali sono rimasti un po' esterefatti subito, ma non hanno capito immediatamente che erano composti anche con parti dei loro regali. Poi, quando le hanno capito entrambi, hanno sorriso e li hanno messi, hanno accantonati anche loro a casa. Quindi ho ritornato ricomposti i loro regali. Benissimo, ciò le fa guadagnare e meritare quello che naturalmente lei si aspetta. Complimenti, hai vinto un libro infame. Allora, all'ascoltatore Michele, che oltre ad aver trovato una maniera fantastica per riciclare regali infami, ha dimostrato una sua vena da profondo, radicale, viscerale, genetico, umarell, e questo non fa mai male, regalo il fantastico libro, che non è soltanto un libro, ma ha anche allegato un meraviglioso DVD con esercizi per l'allenamento della gola, di Ciro Imparato, creatore del metodo Ciro Imparato, La voce verde della calma. Come smettere di arrabbiarsi e infondere amore e fiducia, rispetto con la voce. Lei con questo libro, a chi lo vuole regalare questo però? Grazie. Io faccio una cosa un po' egoistica. Lo regalo a me stesso, Nicoletti. Beh, ancora più infame, certo, ancora più infame. Benissimo. Infamissimo. Allora, lei si chiama, scusimi un attimo. Michele. Allora, a Michele, l'infamone. Lo devo firmare io o vuole firmarlo Michele? Lo firmi lei. Va bene, ecco fatto. È pronto, è già fatto. Arrivederci, grazie, Michele, a presto. Grazie, arrivederci, grazie. Andiamo avanti con Francesco. Buongiorno. Dunque, io vorrei raccontare il regalo infame che ho ricevuto. Spiego un po' come è avvenuto. In un gruppo di 6 amici e amiche, ogni anno usiamo fare un sorteggio e scegliere chi deve regalare a chi. Quindi l'anno scorso io dovevo ricevere il regalo da un mio amico Andrea, e il giorno dello scartamento dei regali ricevo 2 bei pacchi, uno piccolo in cui sembrava ci dovessero essere 2 bottiglie di vino, bene, e uno grande, un po' voluminoso e pesante, in cui temevo un mattone, già conoscendo l'infamia del mio amico. Scarto le 2 bottiglie e scopro che sono 2 splendide bottiglie di Chinotto, di una marca che io stimo molto. Essendo il ghiotto di Chinotto, e ringrazio e sono contento. Già è molto triste la cosa in sé, però acuisce il mio desiderio di darle un libro infame. Allora, andando avanti, nel pacco voluminoso mi aspettavo un mattone, chissà, forse un gadget della nostra squadra calcistica del cuore. Invece apro il pacco e mi trovo tante piccole bottiglie di chinotto che tutte insieme fanno ben oltre 30 litri di chinotto. Una scorta per un anno praticamente. Beh, scoppierà la vescica, è un bellissimo regalo. Beh, poi diciamo che ho riciclato l'infamia portando da bere a casa di amici, in serate, offrendolo. E adesso mi piacerebbe ricambiare il mio micondria con, innanzitutto, scaricherò il podcast di questa trasmissione e glielo farò sentire per Natale. Va bene, mi sembra giusto questo scambio di velenoso chinotto tra amici, mi sembra una maniera migliore per passare un Natale tossico assieme. Complimenti, hai vinto un libro infame. Alla società segreta del libro Chinotto, presidiata da Francesco e dai suoi amici, regaliamo un libro dal forte impegno politico che trovo esattamente giusto per i loro desideri, perché la copertina è proprio color chinotto. È il libretto rosso di Pertini, La vita degna dell'uomo che passò dal carcere all'esilio, dalla presidenza della Repubblica, a cura di Massimiliano e per Paolo Di Mino. È un bellissimo libro perché è color chinotto. A chi devo dedicarlo? Andrea, fantastico. Guardi, fantastico. Nella pagina di frontespizio dove sto per apporre la dedica, c'è una foto di Pertini giovane con divisa militare, quindi io scriverò con gesto blasfemo e irriverente sul volto del giovane Pertini soldato. Allora, ha detto bene, a chi devo dedicarlo? A? Andrea. Ad Andrea. Andrea, vuole che aggiunga qualcosa? In memoria dei litri di chinotto bevuti insieme. Allora, perché gli schiatti la vescica? Mettiamo così, mi sembra perché schiatti a lui la vescica da parte di Francesco. Perfetto, grazie Francesco, buon Natale a lei e ai suoi amici. Avevo pensato di farvi preparare un porta post-it. Allora, occorrente per il nostro porta bigliettini sono, per farci il colore da noi, la Vinavil e i pigmenti. Io ho scelto il blu oltremare e il bianco. Ad esempio, una tazza di questo tipo, io ho questa qui della Disney che mi è stata regalata da una mia amica un po' di anni fa a Natale, molto carina, vabbè, con io i fiocchi di neve, però potete usare una qualsiasi tazza con delle decorazioni natalizie, delle immagini natalizie, Babbo Natale, cose del genere, che si trovano in qualsiasi negozietto e che tra l'altro costano... Andrebbe seppellita nella colla questa ragazza soltanto perché ha detto la Vinavil. Pierluigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Andiamo al punto, abbiamo poco tempo, ma forse ce la facciamo. Ah, notte di cento, bravissimo. Allora, io volevo raccontare, praticamente io il regalo che subisco ogni anno e che poi a mia volta riciclo è il libro che ogni anno sporna Henry De Luca. Ah, il libro nuovo di Henry De Luca. Sì, perché praticamente io ho due o tre amici che frequentano la Chiesa, l'Azione Cattolica, no? Sì. Ogni anno mi Beh, avrebbe una scelta vastissima. Oggi tutti si stanno producendo, persino soubrette della televisione. La Balivo ha scritto un libro, mi sembra, sulle sue cose mistiche. E Brosio, ci sono tantissimi. E vanno a scegliere Henry De Luca, che in fondo ha un suo portato poetico non male alla fine. Sì, beh, no, soltanto che io ho provato a leggerlo, soltanto che ogni anno, cioè la prima volta, dopo la prima pagina, l'ho trovato abbastanza... Si è sgargamellato le gonadi, giustamente, mi sembra logico. Sì. Quindi lei quest'anno vorrebbe ricambiare con un libro infame dei miei ai suoi amici dell'Azione Cattolica? Sì. Benissimo. E quindi vediamo cosa abbiamo sotto mano. Certo, Godete era perfetto, già l'abbiamo dato. Però ho qualcosa di veramente interessante, potrebbe molto servirle. Complimenti, hai vinto un libro infame. Allora, all'ascoltatore Pierluigi, costretto a subire un andirivieni di profondo libello poetico di Henry De Luca, e deve fare un regalo ai suoi amici dell'Azione Cattolica, probabilmente con la speranza che acquisiscano una visione più concreta e meno confessionale dell'esistenza, pensiamo che il libro infame migliore sia Livelli di Guardia, Note Civili 2006-2011 di Claudio Magris. È un meraviglioso libro, guardi, se lei si raggrinziva le gonadi con Henry De Luca, con Magris, stia sicura, si castrerà sicuramente. A chi devo dedicarlo? Lo posso dedicare a me stesso? Se tutti paraculi però. Vabbè, no. Se lei è masochista, come vuole. Okay. A Pierluigi, con gli auguri che faccia effetto, Gianluca Nicoletti, va bene? Sì, va benissimo, grazie. Ci fermiamo un istante per le informazioni del traffico, a tra poco. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. s'est connu, quand on s'est reconnu. Pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé. Pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets. Io mentre sto parlando con voi, sto facendo le dediche, sto fotografando le dediche e pubblicandole su Facebook per dare prova che è realmente quello che sto facendo ha una sua concreta realizzazione. Quindi se andate a vedere i profili vari di Facebook vedete già tutte le dediche meravigliosamente rappresentate. Gianluigi, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora niente, la mia storia è così. Io una decina d'anni fa lavoravo in un'azienda che faceva riciclo di materiale plastico e avevo un'amica che mi aveva fatto uno sgarbo, nel senso era andata a un concerto regalando il biglietto che aveva avuto senza, e non l'ha regalato a me fondamentalmente. Allora, i materiali che stavano riciclando in quel periodo c'erano le tazze del cesso, non le tazze, le tavolette del cesso fondamentalmente. Non si chiamano così, si chiama seggetta per sanitario. Ecco, mi ha rubato le parole di bocca, la seggetta di sanitario stavano riciclando. Io ne rubai una dalla linea di riciclo. Ma scusa, erano già usate oppure erano nuove? No, credo fossero scarti di produzione. Cioè, collaudate, come funziona in fabbrica? Prima le collaudano un po' gli operai e poi vedono se funzionano. No, probabilmente le gettate di materiale plastico non erano venute particolarmente bene o con qualche impurità. Quindi rischia di graffiare le tenere carni di chi ci siede sopra. No, ma io non gliel'avrei regalato per posarci il sedere, ma dentro gli avrei applicato uno specchio e regalato come specchio da casa, nel senso lei poteva alzare la tavola e vedere la sua immagine all'interno della cornice della... Beh, era un nuovo gioco erotico, vabbè, comunque decida lei. Beh, l'ha fatta o no questa cosa? Certo che l'ho fatta, gliel'ho regalato proprio perché capisse che non è stata molto gentile nei miei confronti a non avermi invitato al concerto e aver regalato il biglietto. Beh, comunque devo dire che onestamente ha inventato un nuovo gadget. Potrebbe, era carino, devo potrebbe dire. Vivere di renta soltanto commercializzando questa sua idea. La seggetta per sanitario con specchio applicato può dare sfogo a fantasie inimmaginabili e soprattutto irraccontabili alla radio. Complimenti, hai vinto un libro infame. Allora, a Gianluigi, appassionato di musica, che per vendetta in realtà ha inventato l'idea del secolo, la seggetta per sanitario autoeroticamente illuminante, noi regaliamo il libro infame Talent Shop, dal Talent Scout e Talent Show di Roberto Manfredi, un libro dedicato alla musica che lei ama tanto. A chi lo devo dedicare? Ti posso chiedere una cortesia? Io vorrei essere ancora più infame. Sì. Ho uno socio che è leghista e quando gli ho sentito dire il leghismo raccontato a... No, cos'è la... Ah, vuole scegliere. Aspetta. Bellissimo, ecco, ha ragione. L'Islam spiegato ai leghisti. Esatto, sì, mi piacerebbe una bella dedica. Khaled Fulad, è anche verde la copertina. Fantastico. Li prende ancora più in giro perché il verde lega ma è anche il verde della bandiera dell'Islam. Allora, come si chiama il suocero? Allora, è Armando... Ah, Armando. Armando con Ad Armando, aspetti, Ad Armando. E poi sia il più spiegato possibile. Ad Armando, è il suocero, Sì. Ad Armando, il padano. Il padano. Perché lo prenda sempre in mano il libro, va bene così? Le piace? Va benissimo. Perché è un testo che deve sempre leggere. Grazie, arrivederci. Andiamo avanti con Giampiero. Sì, buongiorno. Sì. Signor Nicoletti, buongiorno. Sì. Volevo informare di un regalo stranissimo che ieri ha ricevuto mia moglie da una sua collega. Allora, è un contenitore di plastica color verde pisello con due gancetti, della misura di un pacchetto di sigarette, che si aggancia alla tazza della colazione al mattino e dove ci possono stare dentro 2 o 3 biscotti. No, scusi, me lo ridescriva, che stavo scrivendo la dedica a Gianluigi. Allora, cosa l'ha regalato? Allora, un contenitore della misura di un pacchetto di sigarette. Sì. Di plastica, verde pisello. Sì. Con 2 gancetti. Sì. E questi ganci si agganciano alla tazza della colazione al mattino. Sì. E dentro questo contenitore ci possono stare 2 o 3 biscotti. Un inzuppatore. Quindi, del biscotto, scusi, ma tutti lo vorrebbero, non è felice? Ma è fantastico, io da stamattina uso quel contenitore, ci metto dentro i miei biscottini. Nessuno poteva mai più dirle quell'orrenda battuta, tu non inzuppi il biscotto, diceva l'inzuppatore. No, veramente un regalo stranissimo, ma a no, mia stranissimo. Moglie, ripeto. Dunque, questo l'ha avuto, sua moglie l'ha regalato a lei? No, una collega di mia moglie l'ha regalato a mia moglie. Io indagherei sul significato simbolico di questo regalo, però per consolarla devo gratificarla. Complimenti, hai vinto un libro infame. Allora, come si chiama questo ascoltatore? Ditemelo un attimo. Gian Piero. Allora, a Gian Piero, che ha ricevuto da una collega della moglie un fantastico inzuppatore di biscotto, regalo, ma non perché possa rappresentare per lui un motivo di preoccupazione, ma perché, non si sa mai nella vita, il libro del fantastico avvocato Gianettore Gassani, I perplessi sposi, indagine sul mondo dei matrimoni che finiscono in tribunale. È contento? A chi lo vuole regalare? Ma a mia moglie, senz'altro. Allora, come si chiama la cara signora? Caterina. Allora, a Caterina, a cui penso ogni mattina, mentre inzuppo la tortina. Va bene così? Benissimo. Va bene, grazie, andiamo avanti. Grazie. Paolo. Buongiorno. Sì. È un piacere parlare con lei. Lei descriva il regalo mentre io scrivo la dedica, se no mi dimentico. Dica, vada a Caterina. Allora, io e mia moglie abbiamo pensato di fare un bellissimo regalo a mio figlio Antonio. Sì. Allora, gli abbiamo regalato un spazzolino per pulire il WC. Beh, scusa, vabbè, che regalo è? Costa 1,50 euro in ogni bancarella. Ma non è importante il costo in sé per sé. Ma perché lo zozzone non pulisce il gabinetto? Esatto, ogni qualvolta che va nel gabinetto bisogna stargli sempre dietro. Sì, adesso non esageriamo nei particolari. Quanti anni ha suo figlio? 15 anni. Sì, basta insegnarglielo, sì, l'igiene. Gli è stato detto 1000 volte, gli è stato detto. Non ascolta. O lo punite con un provvedimento, un presidio di tipo chimico, cioè mettendogli degli astringenti nel cibo, a ciò che dopo 15 giorni che non ha più occasione fisiologica di sporcare il gabinetto, capirà che c'è una motivazione in questa sua improvvisa, radicale, viscerale, dolorosa stipsi. O lentamente lo reeducate, si fa coi cagnolini. Con un giornale piegato si può insegnare facilmente. Non riesco a leggere, se scrive col pennarello verde in tonti non riesco a leggere la lavagnetta in cui mi dice delle cose. Comunque penso che questo le fa meritare senz'altro un libro infame. Complimenti, hai vinto un libro infame. All'ascoltatore Paolo, che deve necessariamente svolgere un programma di rieducazione igienica al proprio figlio, regalerei il libro favoloso Questo non è un paese per bamboccioni di Matteo Fini, Alessandra Sestito. Storia di giovani italiani che ce l'hanno fatta nonostante tutto. Vedrai che con questo libro ce la farà anche a pulire il gabinetto. Come si chiama suo figlio? Ad Antonio. Benissimo, andiamo avanti. La ringrazio. Ringrazio a lei. Arrivederci. Non posso fare multitask, va bene, non posso scrivere le dediche, parlare alla radio e mandare le foto su Facebook. Ci proviamo, Carlo. Sì, buongiorno. Sì, eccomi. Senta, io all'indomani della caduta del muro di Berlino, in una cena con numerosi ospiti, avevo preparato per ognuno delle scatolette, con all'interno dei cocci che avevo recuperato da un lavoro edile che ho fatto, con delle bellissime descrizioni in inglese e in tedesco che descrivevano appunto che erano pezzi originali del muro di Berlino. Io le ho regalato a loro tutti quanti quella sera e credo che ce l'abbiano ancora, c'è la credenza del salotto. Beh, mica è un regalo infame, è un bellissimo regalo questo. Sì, lo avevo anticipato. Cioè, lei non è costato nulla, però è un bel regalo. Ho fatto una cosa del genere e sono rimasto. Poi penso che l'abbiano mantenuta ancora, credo che ce l'abbiano ancora i miei Beh, lei ha fatto un bel regalo tutto sommato ai suoi amici. E chi vorrebbe gratificare con un libro infame lei per questo Natale? Ma magari mia suocera. Sua suocera? Che si merita sempre un libro infame. Si merita sempre un bel lavoro. Va bene, andiamo avanti. Complimenti, hai vinto un libro infame. All'ascoltatore Paolo, proprio in coda di questa trasmissione, ho soltanto un minuto di tempo, lo userò bene, perché sua suocera capisca veramente chi comanda in casa, di Gemma Gaetani, sublime scrittrice, nostra amica, che rimarrà felicissima del fatto che il suo libro farà questa fine, Ogni donna ama un fascista, diario antimoderno di Gemma Gaetani. Come si chiama la gentile suocera? Adriana. Adriana. È felicemente vedova o sposata? No, è vedova. È perfetto, è benissimo, può benissimo, oggi basta che si guarda intorno, avrà un'ampia gamma di scelta. Grazie a tutti gli ascoltatori, sono felice di aver fatto felice il Natale di tante persone.